Avevo appena trasmesso a Madame Verdurin il messaggio affidatomi da Morel e parlavo di Saint-Loup con il signor di Charlus quando Cottard entrò nel salotto annunciando, come se fosse scoppiato un incendio, che stavano arrivando i Cambremer. Madame Verdurin, per non dare l'impressione di fronte a dei nuovi come Charlus, che Cottard non aveva ancora visto, e come me, di attribuire tanta importanza all'arrivo dei Cambremer, rimase immobile, non proferì motto all'annuncio di quella notizia e si limitò ad informare il dottore, sventagliandosi con grazia e col tono artificioso d'una marchesa del Théâtre Français. Il barone ci stava per l'appunto dicendo. Era troppo per Cottard. Non proprio con la bruschezza d'un tempo, giacché lo studio e le frequentazioni altolocate avevano messo un freno al suo eloquio, ma pur sempre con l'emozione che ritrovava dai Verdurin. «Un barone? Dove? Un barone? Dov'è?» esclamò cercandolo tutto intorno, con sguardi il cui stupore rasentava l'incredulità. Madame Verdurin, con l'affettata indifferenza d'una padrona di casa cui un domestico ha appena rotto in presenza degli invitati un bicchiere pregiato e l'intonazione artificiosa e troppo acuta d'un primo premio del conservatorio che recita Dieu ma figlio, rispose, indicando col ventaglio il protettore di Morel. «Ma il barone di Charlus, al quale voglio presentarvi il professor Cottard». A Madame Verdurin, d'altronde, non dispiaceva avere l'occasione di far la parte della dama. Charlus tese due dita che il professore strinse con un sorriso benevolo da principe della scienza. Ma si fermò di netto vedendo entrare i Cambremer, mentre il signor di Charlus mi trascinava in un angolo per dirmi qualcosa, non senza palparmi i muscoli, cosa che si usa fare in Germania. Il signor di Cambremer assomigliava ben poco alla vecchia marchesa. Come diceva lei con tenerezza, aveva preso tutto dal suo papà. Per chi ne avesse solo sentito parlare o magari lo conoscesse dalle lettere, vivaci e acconciamente forbite, il suo fisico era sorprendente. Certo, ci si doveva fare l'abitudine, ma il suo naso, per andare a mettersi di traverso sopra la bocca, aveva scelto fra le tante possibili forse l'unica via obliqua che nessuno si sarebbe sognato di tracciare su quel viso e che esprimeva una stupidità volgare, ulteriormente aggravata dalla vicinanza ad un colorito normanno, rosso mela. È possibile che gli occhi del signor di Cambremer serbassero fra le palpebre un po' di cielo del Cotentin, così dolce nelle belle giornate di sole, quando il viandante si ristora a vedere ferme sul bordo della strada e a contare a centinaia le ombre dei pioppi. Ma quelle palpebre grevi, cispose e mal spianate avrebbero precluso il passaggio anche all'intelligenza. Così, sconcertati dalla strettezza del suo sguardo azzurro, si tornava al suo nasone storto. Per una trasposizione di sensi, il signor di Cambremer vi guardava col naso. Non era brutto quel naso del signor di Cambremer, semmai un po' troppo bello, troppo robusto, troppo fiero della sua importanza. Arcuato, tirato a lucido, risplendente, nuovo fiammante, era pronto a compensare l'insufficienza intellettuale dello sguardo. Disgraziatamente, se gli occhi sono a volte l'organo in cui si rivela l'intelligenza, il naso, quale che sia peraltro l'intima solidarietà dei tratti e la ripercussione insospettata degli uni sugli altri, il naso è, generalmente, l'organo in cui la stupidità più agevolmente si dichiara. La dignità degli abiti scuri che il signor di Cambremer indossava sempre, anche di mattina, aveva un bel rassicurare le persone abbacinate ed esasperate dall'insolente splendore dei vestiti da spiaggia che vedevano addosso a gente sconosciuta. Non si riusciva a capire come la moglie del primo presidente potesse sostenere, con aria sagace e autorevole, da persona più addentro di voi nell'alta società di Alençon, che davanti al signor di Cambremer ci si sentiva subito, prima ancora di sapere chi fosse, in presenza d'un uomo di elevata distinzione, di educazione impeccabile, ben diverso dal genere di Balbec, un uomo, insomma, accanto al quale si poteva respirare. Per lei, asfissiata da tanti turisti di Balbec, ignari del suo ambiente, era come il flacone dei sali. A me parve, invece, che fosse una di quelle persone che la nonna avrebbe classificato da Quito come volgari. E certo, siccome non capiva lo snobismo, avrebbe trovato stupefacente che fosse riuscito a farsi sposare da Mademoiselle Grandin, la quale, con quel fratello così per bene, doveva essere piuttosto difficile in fatto di distinzione. Al massimo, della volgare bruttezza del signor di Cambremer si sarebbe potuto dire che era un po' della regione, che aveva qualcosa di assai anticamente locale. Si pensava, davanti ai suoi lineamenti difettosi, e che veniva voglia di correggere, a quei nomi di piccole città normanne sulla cui etimologia il mio curato si sbagliava perché la gente del luogo, articolando male o avendo capito a rovescio la parola normanna o latina che li designa, aveva finito col fissare in un barbarismo già attestato, come avrebbe detto Brichot, nei cartulari, un controsenso e un vizio di pronuncia. In quelle vecchie cittadine, del resto, la vita può trascorrere piacevolmente, e il signor di Cambremer doveva avere qualche qualità, dal momento che se era tipico di una madre che la vecchia marchesa preferisse il figlio alla nuora, era pur vero che, sebbene avesse diversi figli, di cui almeno due non privi di meriti, lei indicava spesso il marchese come, a suo avviso, il migliore della famiglia. Durante il breve periodo trascorso nell'esercito, i suoi commilitoni, trovando troppo lungo dire Cambremer, gli avevano dato il soprannome di Cancan, che egli, d'altronde, non si era in alcun modo meritato. Sapeva essere decorativo ai pranzi cui veniva invitato, dicendo al momento del pesce, fosse anche marcio, o dell'arrosto: «Per Bacco, ecco quel che si dice una gran bella bestia!» E la moglie, che aveva adottato, entrando nella famiglia, tutto quanto le sembrava facesse parte di quel genere d'ambiente, si metteva sullo stesso piano degli amici del marito e cercava forse di piacergli come un amante, e quasi avesse condiviso un tempo la sua vita di scapolo, dicendo in tono disinvolto, quando parlava di lui a qualche ufficiale: «Potete vedere Cancan, Cancan è andato a Balbec, ma tornerà stasera». Era furente quella sera di doversi compromettere andando dai Verduran, e lo faceva solo su preghiera della suocera e del marito, nell'interesse della locazione. Ma meno beneducata di loro, non nascondeva il movente, e da 15 giorni spettegolava a tutto spiano con le sue amiche a proposito di quel pranzo. «Sapete che pranziamo dai nostri inquilini? Varrà bene un aumento. In fondo sono abbastanza curiosa di vedere cosa sono riusciti a fare della nostra povera vecchia Raspellier, come se ci fosse nata e ci ritrovasse tutti i ricordi dei suoi. Il nostro vecchio custode mi diceva proprio ieri che è irriconoscibile. Non oso pensare a tutto quello che deve succedere là dentro. Credo che faremo bene a far disinfestare tutto prima di tornarci». Arrivò altera e imbronciata, con l'aria di una gran dama il cui castello, per vicende belliche, si è occupato dai nemici, ma che si sente pur sempre a casa sua e tiene a far capire ai vincitori che sono degli intrusi. Madame de Cambremer non poté vedermi subito, perché ero in un salottino laterale in compagnia del signor di Charlus, il quale mi stava dicendo d'aver saputo da Morel che suo padre era stato amministratore nella mia famiglia e che faceva sufficiente assegnamento lui, Charlus, sulla mia intelligenza e la mia magnanimità, termine comune al barone e a Swann, per essere certo che mi sarei negato l'ignobile e meschino piacere cui, al mio posto, un volgare piccolo imbecille, ero avvisato, non avrebbe rinunciato di rivelare ai nostri ospiti qualche particolare che questi avrebbero potuto credere umiliante. Il solo fatto che io mi interessi a lui, estenda su di lui la mia protezione, è di per sé sovreminente e abolisce il passato, concluse il barone, Mentre lo ascoltavo e gli promettevo il silenzio, che avrei mantenuto anche senza la speranza di passare in cambio per intelligente e magnanimo, guardavo Madame de Cambremer e stentavo a riconoscere il cibo tenero e saporito che avevo avuto accanto a me un paio di giorni prima, all'ora di merenda, sulla terrazza di Balbec, nella galletta normanna, dura come un sasso che avevo sotto gli occhi e che i fedeli avrebbero cercato invano di addentare. Seccata a priori della bonarietà che il marito aveva preso dalla madre e che gli avrebbe fatto assumere un'espressione onorata quando gli avessero presentato i fedeli, e tuttavia desiderosa di adempiere alle proprie funzioni di grandama, quando le presentarono Brichot, volle far fare allo studioso la conoscenza del marito, perché così aveva visto comportarsi le sue amiche più eleganti. Ma la rabbia e l'orgoglio, prevalendo sull'ostentazione delle buone maniere, anziché dire, come avrebbe dovuto, «Permettetemi di presentarvi mio marito», disse «Vi presento a mio marito», tenendo alta in tal modo la bandiera dei Cambremer, a dispetto dei Cambremer medesimi, visto che il marchese si inchinò davanti a Brichot non meno profondamente di quanto lei avesse previsto. Ma l'umore di Madame de Cambremer mutò di colpo quando scorse il signor di Charlus, che conosceva di vista. Mai era riuscita a farselo presentare, nemmeno ai tempi della relazione che aveva avuta con Swann. Infatti Charlus, che si schierava sempre dalla parte delle mogli, della cognata contro le amanti del signor di Germain, di Odette non ancora sposata all'epoca, ma vecchia amante di Swann, contro le nuove, aveva, da severo difensore della morale e protettore fedele delle unioni, fatto a Odette e mantenuto la promessa di non lasciarsi mai presentare a Madame de Cambremer. Questa non si sarebbe certo immaginata che proprio dai Verdurin avrebbe finalmente conosciuto quell'uomo inavvicinabile. Il signor di Cambremer sapeva che sarebbe stata per lei una gioia così grande che ne fu commosso a sua volta e guardò la moglie come a dire «Siete contenta, d'esservi decisa a venire?» Parlava pochissimo del resto, consapevole d'aver sposato una donna superiore. «Io indegno», diceva di continuo, e citava volentieri una favola di La Fontaine e una di Florian che gli sembravano adattarsi alla sua ignoranza e, d'altra parte, consentirgli, sotto forma di una sprezzante adulazione, di mostrare agli uomini colti ma non appartenenti al jockey che si poteva nello stesso tempo andare a caccia e aver letto delle favole. Il guaio è che in pratica ne conosceva solo due. Per questo venivano fuori spesso. Madame de Cambremer non era sciocca, ma aveva diverse abitudini molto fastidiose. La deformazione dei nomi non serbava traccia in lei del disdegno aristocratico. Non avrebbe mai detto come la duchessa di Germain, la quale, grazie alla sua nascita, avrebbe dovuto essere ben più di Madame de Cambremer, al riparo da questo ridicolo vezzo, per non mostrare di conoscere il nome poco elegante, mentre adesso è quello di una delle donne più difficili da avvicinare, di Julien de Montchâteau. «Una piccola madame, pic della Mirandole». No, quando Madame de Cambremer citava un nome storpiandolo, era per benevolenza, per fingere di non sapere una certa cosa, e quando per sincerità finiva con l'ammetterla, nella convinzione di nasconderlo, snaturandolo. Se, per esempio, difendeva una donna, cercava di dissimulare, pur non volendo mentire a chi la supplicava di dire la verità, che Madame tal dei tali era in quel momento l'amante del signor Sylvain Lévy, e diceva «No, non so assolutamente nulla sul suo conto, credo che le abbiano rimproverato d'aver ispirato una passione a un signore di cui non conosco il nome, qualcosa come Can, Con, Cun. Del resto credo che questo signore sia morto da parecchio tempo e che fra loro non ci sia mai stato niente». Procedimento simile e inverso a quello dei bugiardi, i quali, alterando ciò che hanno fatto quando lo raccontano a un amante o semplicemente a un amico, si figurano che l'una o l'altro non s'avvedano immediatamente che la frase riferita, non diversamente da can, con, kyun, è interpolata, è di un'altra specie rispetto a quelle che compongono la conversazione. È a doppio fondo.